io vo. L'oggi urlano anche tu hai, vei. A su faluto non America te ma ci vuoi you che va. Tu tu pir no sa chi ni chi piccola in me. Chiu la me ni uta le te tu bu bu me ni da te io ne te sha tu ga. Katari no shi kakaru yo da. Tu ki sa ki o tsu da te iro to ri no ri no kasa o wa ki te kare wa. Yoru no hashi ni suberi kanda. Tobari oroshite shizumu taiyou wo. Yami ni tomaru pinku no neon sign. Asfalto nameru yoni machi wo yukeba. Kawasu shita no saki ga itami dashite. Dorotoro ni natte sakaime ga aimai ni natte tokete yoru ga. Karada o tsutsumi komu yo. Tachi akari mo sakke yuki ga o hito nami o wakutemo kanojo wa. Urayami o nukete shita.